Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Légime di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Il sorriso arcaico. Jules Légime partirono per la Grecia. Per mesi avevano preparato quel viaggio alla Biblioteca Nazionale. Jules aveva scovato per Jim i libri essenziali. Quando Jim era stanco di leggere, andava da Jules. Lo trovava circondato da grandi piante di templi crollati, intento a ricostruirli in base all'indicazione dei testi. Jules aveva perfezionato il greco antico e intrapreso lo studio del greco moderno. Partirono con un bagaglio ridottissimo. Si erano fatti fare degli abiti chiari, uguali. A Marsiglia si imbarcarono per Napoli. Jim si stese sulla punta estrema della nave e restò a guardare la prua fendere l'acqua turchina. Jules rileggeva i suoi grossi libri e veniva di tanto in tanto a spiegare a Jim qualche punto importante. Avevano la stessa cabina con due cuccette sovrapposte. Jim dormiva in alto. Continuarono a parlare per tutta la notte. Erano contenti quando il caso li faceva dormire nella stessa camera, ma chiedevano sempre due camere. Jim si interessava all'origine della sottile e netta incisione circolare che hanno proprio sotto il capitello le colonne doriche. A Napoli, Jim fu affascinato dai cinti di Venere dell'acquario, quegli esserini di un tessuto quasi invisibile, tuniche vibranti strette in vita da un anello di arcobaleno. Visitarono a fondo il museo archeologico, videro Paestum, i tre templi, e per loro incominciò il miracolo greco. Jules fece conoscenza con una giovane napoletana, le mandò dei fiori e dei dolciumi. Quindi Palermo, i mosaici. Andarono a piedi al tempio di Segesta, rifiutando di servirsi degli asini. Si sentivano pellegrini e pagavano volentieri alla bellezza e il tributo di una giornata di fatica. Jules recitava Omero. A Selinunte videro, falciati dai terremoti, i templi giganteschi di cui a Parigi avevano studiato la pianta. Jules era così contento di ricostruirli per Jim che davanti a un tempio rimasto in piedi disse «Che peccato!» Siracusa, la fonte aretusa, Jim amava quei nomi. Si imbarcarono su un piccolo cargo scalcinato con quattro cabine maleodoranti di dentifricio e di frittura. Furono sorpresi da una tempesta che durò 5 giorni. Jim, che non soffriva mai il mal di mare, fu indisposto. Rimase disteso sulla sua cuccetta a leggere e non toccò cibo. Jules mangiò a tutti i pasti in un'alternanza di euforia e di depressione. Il cuoco gli diceva: «Però questa bistecca al signore l'ha ritenuta per un'ora, facciamo progressi!» A Creta il sole tornò a splendere e col mare calmo iniziarono a salire verso il nord. Vivevano in un'attesa fervida. Jules per primo scorse in lontananza un punto minuscolo e sbiadito che mandava lampi, l'Acropoli. Il mese che trascorsero ad Atene fu impregnato di religione pagana. Si credettero greci. Templi e musei li colmavano di bellezza. La Vittoria Aptera evocò loro Lucie, una lottatrice su un frontone Gertrude, una danzatrice su un vaso Odile. Andarono a piedi a Capo Sunion, sotto un sole rovente. Jim non volle né bere né mangiare né fumare e quel giorno uguagliò la resistenza di Jules. A piedi ancora a Tirinto e a Micene, il palazzo reale coi suoi blocchi di pietra accatastati li sconvolse. Jules, che accarezzava le statue, ebbe voglia di toccare delle forme vive. Chiesero informazioni a una vecchia guida che Jules cercò a lungo dopo averla rifiutata il primo giorno. Passarono una serata nell'unico locale di Atene in cui ferveva la vita notturna. C'erano donne di diversi paesi, fuorché greche. Una tedesca, però, aveva il tipo greco e assomigliava a una Gertrude giovane. Jules ottenne un appuntamento a casa sua per 2 giorni dopo, a mezzogiorno. Stette sulle spine fino a quel momento e si mise in gingheri. Quando si presentò a casa di lei, una cameriera gli disse: «La signora è rientrata questa mattina alle 9 e mi ha detto di non svegliarla». Jules se ne tornò via sconsolato. «Non c'è da meravigliarsi», gli disse Jim. «Con la vita che fa e tutto lo champagne che beve, non l'ha fatta apposta. È stata carina con voi l'altra sera, lo sarà anche stasera». «No», disse Jules. «Era oggi, è finita». Jules aspettava un compatriota, suo compagno di università, pittore promettente. «Ha sposato la Grecia», diceva Jules. Albert arrivò. Sapeva il greco anche meglio di Jules. Era alto e bruno, non bello, ma un carattere. Mostrò loro la sua collezione di disegni e di fotografie. Una di queste rappresentava una dea rapita da un eroe. aveva un sorriso arcaico che li affascinò. La statua era stata dissotterrata di recente in un'isola. Decisero di andare insieme a vederla. Stavano sempre tutti e tre insieme, frequentavano la pasticceria all'aperto del parco, che era il ritrovo della borghesia ateniese. Cercavano dei volti che avessero il tipo greco antico, non ne trovavano. Percorsero insieme il Peloponneso. Albert era un maestro severo e esigente. Con lui vedevano le cose a fondo. Jim aveva rispetto per lui, ma era geloso di lui riguardo a Jules. Se ne accorse e reagì. Si nutriva della scienza di Albert, non gli piaceva il suo dogmatismo sorridente. A Delphi, poiché non arrivavano i muli che avevano ordinato, partirono attraverso le montagne su certi poveri asinelli, con un bambino per guida sotto una pioggia battente fra nuvole basse. Persero la strada, le selle dure li ferivano. Si fermarono in una squallida locanda isolata. Già sotto la zuppiera trovarono due cimici. Albert si infilò per difendersi da quelle bestie uno speciale sacco leggero come un costume da clown che lo avvolgeva dalla testa ai piedi. Giocarono a poker per ammazzare il tempo, dormirono, malgrado tutto, e ripartirono. A bere l'acqua c'era il rischio di prendere il tifo. Il tè delle locande era bollito male. Bevvero del vino resinato. Jim ebbe un attacco di dissenteria e questo lo innervosì. Un giorno a tavola, Albert espose per l'ennesima volta la sua visione dell'universo che implicava, a conti fatti, una superiorità della sua razza. Jim, che aveva taciuto a lungo, esplose e volle fargli ritirare le sue parole. Si sarebbero forse anche battuti. La tranquilla presenza di Jules glielo impedì. Albert sembrò stupito e Jim tornò cortese. Con una nave giocattolo raggiunsero l'isola. Corsero dalla loro statua e trascorsero un'ora con lei. Sorpassava ogni loro aspettativa. Le girarono intorno a lungo, in silenzio. Il sorriso aleggiava, potente, giovane, assetato di baci e forse di sangue. Ne riparlarono soltanto l'indomani. Avevano mai incontrato quel sorriso? Mai. Che cosa avrebbero fatto se un giorno l'avessero incontrato? Lo avrebbero seguito? Albert continuò i suoi viaggi. Jules e Jim rientrarono a Parigi pieni della rivelazione avuta e certi di sentire il divino a portata degli uomini. I corvi. Un po' alla volta Parigi li riprese. Odile era tornata definitivamente nel suo paese. Jules prese in affitto un piccolo appartamento e lo arredarono insieme. Jim disegnò il grande letto a due piazze che Jules desiderava, basso, con la testata a forma di mezzaluna e un'altra mezzaluna dal lato dei piedi, e quel che di meglio si poteva trovare a Parigi in fatto di materassi e biancheria. Chi ci avrebbe messo Jules? Avrebbe visto poi. Erano stufi dei caffè, lavoravano insieme e ognuno per conto suo. L'ultimo romanzo di Jules aveva avuto un certo successo. Raccontava in un'atmosfera da fiaba di donne conosciute un tempo, prima di Jim e prima anche di Lucie. Jim aveva una vita sentimentale francese dalla quale Jules era escluso e alla quale non teneva neppure a prendere parte. Jules andò a passare un mese in Borgogna in una casa della madre di Jim solo con lui. Era autunno. Fecero un pellegrinaggio a piedi fino a Vézelay, in mezzo alle rosse foglie che cadevano. Andarono a caccia. Jules stanava le lepri che Jim qualche volta abbatteva e che poi mangiavano. Un pomeriggio camminarono a lungo soli nella pianura coperta di neve. Planava una nube di corvi. Jim disse a Jules di avvolgersi nel lungo mantello scuro, di abbassarsi il cappuccio sul viso e di correre zoppicando e ogni 20 passi cadere e restare un attimo immobile, come un animale morente. Jules fece bene la sua parte. Jim si era nascosto un po' più in là. Vide i corvi formare un grande cerchio che volteggiava al di sopra di Jules e lo seguiva. Il centro del cerchio si abbassava prendendo la forma di una tromba, la cui punta scendeva verso l'ignaro Jules. Improvvisamente la nube fu su di lui, formando un turbine basso, pronta ad abbattersi. Jim ebbe paura per Jules, si immaginò la scena, le bestie che lo coprivano, lui che sollevava il cappuccio e quelle che gli beccavano gli occhi. Saltò fuori dal suo fosso e sparò. I corvi si fermarono solo per un attimo. Jim si mise a correre e sparò di nuovo. I corvi ripresero quota, a malincuore. Jules era contento che lo stratagemma avesse funzionato. Jim era turbato, come da un simbolo che non capiva. Visitarono alcune chiese romaniche. La Lucie che evocavano lì era più somigliante di quella dell'Acropoli. Kate e Jules. Parigi. Jules annunciò a Jim un nuovo arrivo di ragazze del suo paese, berlinesi questa volta. Jim avrebbe preferito non vederle e lavorare in pace, ma Jules gli spiegò che faceva parte del programma e che poteva essere loro di grande aiuto con un minimo dispendio di tempo. Erano tre, leste d'occhi e di lingua. Non hanno affatto bisogno di noi, pensò Jim, e hanno una notevole esperienza per la loro età. Si misero a dipingere con passione, eppure in capo a una settimana sembrò che sapessero tutto di Parigi. La prima, Rachel, alta e scura, aveva una severa bellezza asiatica. La seconda, rotondetta e vivace, una bellezza viennese. La terza, biondissima, con la pelle abbronzata dal sole, una bellezza germanica. Facevano sensazione quando entravano tutte e tre insieme in un dancing. Kate, la terza, aveva il sorriso della statua dell'isola. Era lei che Jim aveva notato, e Jules la vide tutti i giorni, da solo, per conto suo. Non invitava Jim a incontrarla. Si andò avanti così per un mese. Jules andava a trovare Jim, non fece confidenze. A Jim sembrò un buon segno. Jules disse a Jim: «Venite a passare con me e Kate la serata del 14 luglio. Ci farete piacere». Ma guardò Jim negli occhi e articolò con voce bassa e lenta: «Questa no. Vero, Jim? Questa no, Jules», rispose Jim. Arrivando da Jules, Jim trovò Kate travestita da uomo con addosso un abito di Jules. Aveva spalle ampie, fianchi sottili, un berretto da golf a nasconderle i capelli raccolti in una crocchia, un paio di grossi guanti di pelle chiara e una maliziosa aria di sfida. Chi non lo sapesse avrebbe potuto davvero prenderla per un ragazzo. «Che ne dite del nostro amico Thomas?» disse Jules. «Possiamo uscire con lui stasera?» Jim esaminò Thomas, fece aggiungere un'ombra di baffi, sistemare la piega dei pantaloni, poi disse: «Può andare». «La prova della strada», reclamò Thomas. Percorsero insieme il boulevard Saint-Michel, fermandosi ai balli nei crocicchi. Jules ballò con Thomas. Ogni tanto sentivano una frase: «Guarda sta bionda!» o «Ma va, che tu sei femmina!» Segno che Thomas era stato smascherato. Ma c'erano altre donne travestite da uomo e Jules e Jim erano le sue guardie del corpo. Thomas fu all'altezza del suo ruolo ed ebbe successo. Jim ne era fiero per Jules. Kate era cameratesca e disinvolta, con allegre schermaglie nella conversazione. Più commedia di Odile e meno farsa. Jim la considerava talmente di Jules che non cercava di farsene un'idea più precisa. Il sorriso arcaico, innocente e crudele, tornava come spontaneo sulle labbra di Kate appena la faccia le si distendeva. Le era naturale, le esprimeva tutta. Jim li vide spesso, stava bene con loro, con un Jules provvisto di una donna che sapeva ricevere. Insieme cantavano e mimavano vecchie canzoni francesi. La sera lungo il muro del cimitero di Montparnasse facevano anche delle gare di corsa che Kate vinceva partendo prima del segnale. I due guanciali di Jules erano ora l'uno accanto all'altro e il letto aveva un buon odore. Jules disse a Jim che voleva sposare Kate. Poi un bel giorno che lei aveva quasi detto di sì. Jim fu spaventato per entrambi. Ebbe voglia di dire: «Fermi, aspettate un momento». Kate gli disse, presente Jules: «Signor Jim». «No», interruppe Jules, «Jim e basta». «Jim e basta», riprese Kate. «Vorrei avere un colloquio con voi e chiedervi un consiglio. Vorreste aspettarmi domani sera alle 7 nella prima sala del nostro caffè?» Jim lanciò a Jules uno sguardo interrogativo. «Sì», disse Jules. «Kate vuole parlare con voi. Sapeva di che cosa?» Jim arrivò correndo al caffè alle 7:04. Era in ritardo, come spesso gli capitava, per ottimismo. Era scontento di sé e temette di non arrivare per primo all'appuntamento. Cercò Kate e non la trovò. Si sedette, aspettò un quarto d'ora e pensò: «Una come lei può perfettamente essere venuta e, non trovandomi, essersene andata via alle 7:01». Questo dubbio lo tormentò. Prese macchinalmente un giornale e si mise a guardarlo. Lo mise giù pensando: «Una come lei può aver attraversato rapidamente la sala senza vedermi dietro il mio giornale ed essersela squagliata ipso facto», si ripeté. «Una come lei... ma insomma, com'è lei?» E si mise a pensare a Kate direttamente per la prima volta. Erano le 7:30. Si disse: «Aspetto ancora un quarto d'ora». Andò via alle 8:10. Kate, che quanto al tempo era ancora più ottimista di Jim, era andata dal parrucchiere. Si era fatta fare shampoo e messa in piega e arrivò a vele spiegate al caffè alle 8 per cenare con Jim. Rimase malissimo non trovandocelo. Aspettò 10 minuti e se ne andò. Jules andò a raccontare la cosa a Jim il giorno dopo. «Se solo avessi supposto che poteva ancora venire», disse Jim, «avrei aspettato fino a mezzanotte». Jules e Kate partirono quello stesso giorno per andare a sposarsi nel loro paese. Jim li accompagnò al treno e regalò a Kate un buffo sgabellino pieghevole da mettere sotto i piedi. Se Kate e Jim si fossero incontrati al caffè, le cose sarebbero andate forse molto diversamente. Il tuffo nella Senna. Appena sposati, subito dopo aver assolto agli obblighi familiari, Jules e Kate tornarono a Parigi. Jim andò a cena da loro. Il grande letto merovingio era stato inaugurato ufficialmente. Jules era felice e si occupava di tutto. Era finalmente un uomo vero. Jim lo vide risolvere magistralmente problemi di biancheria, di affitto, di assicurazioni e di bagagli e ne rimase ammirato. Un po' alla volta, però, si rese conto che le soluzioni di Jules erano dello stesso genere di quella di tenere il cilindro nella stufa. Anche Kate se ne accorgeva e non batteva ciglio. Diceva di sì a Jules su tutto e tutto sembrava in ordine. Lui avrebbe sofferto del benché minimo dubbio espresso a questo proposito. Jules era il marito della donna bionda dei suoi sogni. Valentina Carnelutti ha letto Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard 1953, traduzione di Ena Marchi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.